Siamo alle 10. Siamo alle 20. Gavino. Non c'è. Chi sei? Guido la Vespa. Non ho copiato perché avevo il volume è molto basso. Prova adesso che ho alzato. Sono Guido la Vespa e tu sei Remo la Barca. La Barca? Carlo la Barca, sì. Uè, carissimo, già ero 2 giorni senza sentirti. Hai visto, eh? Come va, Antonè? Va bene, dai, diciamo. Stavo modulando su un'altra frequenza e invece non mi ha beccato Gavino. Tranquillo. Passa sul 20 un attimo, Antonè. E via. Brigido. Brigido. Ora, prova. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova. Alessio, Pompu. Ascolti, guarda un po', 3, 4, 5, 6, mi ascolti? Sì, già ti ascolto. Ma sei un bel basso però. Dimmi come mi ascolti. No, per radio 5. Ok, va bene, volevo sapere quello, no? Ciao, va bene, allora. Che là? Già ti piace poco la gnagna a te. La gnagna? Sì, la linea linea. Vada po'. Bucca, beh, come va? Bene? Bene. Bucca. Vale, com'è? Perfetta? Chiara? Un paperino, sarebbe B5 questo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lascia fare così. Guarda adesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. No, era meglio prima. Ok, va bene. Sono contento. 1, 2, 3. Si vede, si sente il televisore. La ventola è sparita, giusto? Sì. Ok, meglio così, era ora. Ho sistemato l'alimentatore. Almeno a posto si sente più quel cavolo lì, di molto picco. Non è tolta? No, non l'ho tolta, l'ho agganciata. L'ho messa a rovescio e aspira dall'interno verso l'esterno. L'ho messa più grande. Troppo. Ma con il pompone non mi ascolta. Come non ti ascolta? Non ascolto, chi è? Non ascolta Emanuele. Prova a parlare Emanuele. Ma mi ascolti, sì o no? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Segnale 8, ma la radio proprio non ce n'è. ho sempre preso il VM, non capisco un cazzo. Ma se ne è, boh. Cosa gli costa mettersi, boh, un'antenna come si deve, sopra un tetto, non so, attaccata alla lavatrice, attaccata all'impianto del gas del vicino. No, amore, è quasi sempre 9:10. Ha detto che se ne alle 8 non c'è radio. No, se 9:20 qua. Se 9:20, a picchi di 9:30 quasi. Boh. No, qua c'è la radio, cazzo non c'è. Vedi, c'è un casino con il REM, secondo me è un tonello. Ecco, il REM, ha voglia di quel REM qui. Se vede qua abitare se ne fugge. Ciucca ciucca ciu, ciucca ciucca ciu, ciucca ciucca ciu. La batteria. Sì, provo a cambiarla. Ah? Provo a cambiarla. La pane casino ci avevi? Perché stavo centrando un ricevitore, un realistic. Casino di essere ricevitore. Se fa l'antenna sua giusta, già lo sai, non è che puoi metterci un'antenna così e poter ricevere tutto. Adesso usando il microfono salenta. Il CM40 con il C80, ma C80, ma 140. Va meglio. Bocca. Ascolti adesso. Uno, due, tre, uno, due, tre, prova. Ascolti. Hola. No, si satura. Si satura. Allora si è parido. Cavolo il microfono. Tieni, guarda, metti la 4. Adesso mi ascolti. Sì, è la batterina, non è, capito, la batteria. L'ho messa nuova la batteria. A 8 l'ho messa e va bene, se lo metti a 10 non va. Tieni la 8. Guarda, si risentralisce adesso. Dopo mi ascolti. Metti tu bene il QRM e buon pugno. Ma tu lo senti? Sento, propagazione. Propagazione tedesca e russa. Ma non mi ascolta, si vuole di propagazione. Antonio, mi senti? No, non lo sento. No. In caso di QRM deve avere. QRM no, propagazione un bene ho. Parecchio, capito? Quindi fidati. C'è un bel propagazione. Va a casa. Figura di giù. E cambia antenna. Mi metto un bel antenna orizzontale sotto al tetto. E a me lo sento a tutti. No, mi sposto sul muro, dai, che vado a fare le prove con questo ricevitore. E io mi sento che devo uscire, dai, adesso sentiamo lui. Sei spostato in pasticceria invece, a fare le prove e assaggiare. Ora, prova, 1, 2, 3, 4, 5, prova, oissa. CQ10 Condor da Alfa 1 CQ. Thank you. piano, aspetta, ti stavo facendo un duetto con uno, cazzo, mi stavo facendo crepa. C'è allora, cucca. Aspetta 2 secondi. Il poco agito da città, fra poco devo portare il cane. Stavo aspettando che entrasse qualcuno, non è entrato nessuno, boh. Già, sto mandando una foto, scusa. Tanto io verso le 7:30 vado a prendere e ci vado a vedere proposito. Ciao, messo. Le monete, prendimi le pizze. Oh già, aspetta, ti mando un messaggio un attimo. Però mi raccomando, un po' in bocca, eh. Oh! Sei contento? Non funziona più l'accordatore, non mi segna più le stazionarie. Salgono quando li batte, ma non si muove la lancetta del rosso. Boh. Ciao Lu. Ciao Fra, come non si muove? Faccia a posto. Non lo so, può essere successo. Mi è capitato. Ho capito Fra. Ti è mai capitato questo problema? No, io non ne ho cosa. Ce l'ho, uso quello del baracchino. La barra. Anche se non è giusto, ma non ne ho attaccato, ce l'ho amplificato e l'ho attaccato. Ma grazie a Dio faccio parte anche altri lunghetti e non si brucia tanto, vuol dire tutto a posto. Però non ne ho stazionaria. No, anche io già tengo d'occhio tutti e due. Però più o meno sono simili, erano simili. Adesso invece proprio non si muove. Non sale la lancetta del rosso, non si muove niente. Neanche quando sposto la cordatura, no? Che nel baracchino me la segna, ma lì invece è zero. Qualcosa è successo, Sono nelle casse da 6 Gianni. Aspetta, sei un bel amplificato, non ho capito. Ci sei Gianni. Gianni doppio room? Ah, Lu, c'era Gianni doppio room? Aspetta un attimo, Franco, 2 secondi, eh. Sono qua intanto, provo dai. 2 colmi, lui si è ripreso. Gianni, ci sei? Gianni non c'è? No, Gianni non c'è, è andato via. Comunque, vista la stantica, 2 colpi e è ripresa a funzionare. E se si era incollato qualche cosa all'interno? Vista. Sì, adesso si vede che si muove appena appena. Poco, ma si muove. Vabbè, come va, Luca? Ma come va? Sbattendo la testa da una parte all'altra, sto portando il curriculum a destra e a manca, chissà che esca qualcosa, speriamo. Niente ancora, già l'altra volta mi ricordo che stavi... qualcuno ti aveva dato un consiglio di portarlo non so dove, Ancora nuda, Fra. Cosa vorresti fare? Cosa, Fra? No, dico, c'è qualche titolo in particolare? No. Però sì, vabbè, ho fatto magazziniere. Per dire, ma io arrangio tutto, non ho problemi, se tu mi metti a fare io faccio, eh. E poi se mi ha chiamato anche la Zanussi, quelli che piazzano cucine, ha detto un amico, no? Mi ha detto lui, guarda, si cercano persone, solo che adesso domani farò un salto. Però è un casino, Fra, perché dovevo farmi anche l'intervento al naso, adesso che c'è freddo ancora. E sono un po' incasinato, cavolo. Madonna, va. Ma avevi già fatto qualcosa, qualche intervento, non mi ricordo. No, mai. Visite un bel. Visite dall'ottorino alla lingoiatrica, lì ho fatto 2 o 3. Ho controllato tutto la gola, tutto quello che c'era da controllare. Il naso ovviamente. E da operare. Ma deviazione cos'è? Sì. Setto, poi turbinati e polipi. Avevamo 3 file, fanno piazza pulita, dai. Io pensavo che tu i polipi li avevo già tolti da noi, da piccolo. Siamo alle tonsille, prima ti toglievano tutto, perché così. Però mi è rimasta un po' di deviazione, anch'io ce l'ho. Sì, ma io a me mi si chiude, vado in apnea, come di volta, chiude più di una volta. Sì, lo devo fare per forza, lo faccio adesso, siamo a fresco, perché a caldo non si possono fare queste cose, capito? adesso è un casino. È un casino nero nero. Vabbè, se vuole fatto. L'unico problema è quando ti tolgono i tamponi e basta, quando ti tolgono quei tamponi di cotone. Raga, se ne affutti. Un attimino. Stringi i denti e te ne vai a trazzare, se ne affutti. Pensate che ti oprono. Ah, ecco, sto cercando una cosa qua, no? Che non la vedevo. E niente. Da questa qua, sì, perfetto. E fra fatto. Poi l'hai fatto e basta. Inutile, siamo lì a rigirare la frittata. Con una cosa vuole fatta, vuole fatta e tu. Sono venuto da lì va. E lo faccio. Ne approfitto e lo faccio adesso, così. Cazzo, non posso stare sempre con l'isplaso. Ho fatto questa puntura che si chiama, se te lo dico, e ce l'ho qua. Cioè, la vita un po' mi ha fatto bene. Ormai non l'ho fatte tutte quante, una ogni giorno, bisogna fare una ogni mese. Si chiama, che era corte, 40 mg. Infatti mi sono fatto due siringhe e due punture, ma adesso sono lì fino adesso. Allora, si chiude la notte, e quando si chiude, ma sto mesi così, ma non spray nulla, niente, zero, non aiuta, proprio per nessuna ragione. Invece quella puntura lì, guarda, ti posso dire, mi ha fatto la mano di Dio, e grazie a Dio sono qualche giorno che posso dire che c'è un naso libero. Sì, no, se vai in apnea, insomma, non è una cosa buona, anche che poi ti può portare anche altri problemi, capito, a livello cardiaco, perché non respiri bene, non ossigeni bene. Quindi se sia quelli belli vuol dire vuole farlo davvero. No, non so che medicina sia. Il principio, che principio è, te lo dice? Cortisone. Cortisone, com'è? Vabbè. Quindi lo farei qui a Sassari, sì? Sì, secca bianca. Stai aspettando o che cosa? Domani devo fare il foglio. Se non mi ricordo, c'è il foglio? La cartella devo fare, forse per il cofano. Quindi, cioè, dipende da te, dai, non è che stai aspettando, come si chiama, un turno, dai. Esatto. Quando vuoi ti prenoti e vai, e poi ti daranno loro il giorno. Come? Appena c'è tutto in regola, ti prenoti e ti daranno loro la prenotazione per fare questo intervento, dai. Sì, beh, certo, solo lo fanno. Sì, vediamo un po', c'hai 6 Gianni. Ma era qua, su questo canale? Eia. E che fine ha fatto? Che ore sono? Sono le 7, no? È già uscito, no? Non ho capito, fra. No, che non sia già uscito in macchina. Ah, boh. Non lo so. Non credo, no. Forse... doveva portare il cazzo. Può essere. Ora, comunque mi ascolti bene, sì, sempre chiaro? Come, fra? Mi ascolti sempre bene? Tu arrivi foto lo stesso, eh. No, dico, sono sempre uguale, come sempre. Prima c'è un po' di amplificazione, ma che tu sei alto, eh. Va meglio così? Decisamente. Poi magari in lontananza lo puoi aumentare, ma siamo vicini. Io te l'ho messo a 2, bene fa, o lo metto a 1, boh, dimmi tu. No, rispetto a prima va meglio anche tu, perché prima si sentiva tutto. È un bel amplificato, è un bel forte quella radio. Adesso va meglio anche tu. No, io adesso l'ho messa a 5 e ho abbassato anche il mic gain di un quarto, dai. Ma non è la radio, ma è il microfono, vabbè, anche la radio, Non è il microfono che fa il suo dovere. Vecchietto, sta sempre andando, dai. Questo microfono c'è un mediano, vabbè, non è vecchio il microfono, fra. La carcassa è nuova, è il circuito che è un po' così. Allora, gli ho rifatto, diciamo, con le saldature buone, dai. Le ho rifatte, erano troppo grosse. E questo si sta un po' deteriorando il cavo, in certi punti si sta screpolando. Ma io c'ho qualcosa, dovrei controllare se è, non lo so, c'è un problema. Quanti fili sono? 5? Sai che non lo so, vabbè, il cavo è a 4, lo spinotto è a 4, però sicuramente il microfono ci avrà più fili, dai, sarà predisposto per altre radio. Ma in uno spinotto ci sono due fili attaccati assieme, capito? Bisogna vedere quanto è. Non lo so, però adesso gli ho messo nella parte screpolata, gli ho messo un po' di, come si chiama? Non termorestringente, quello vulcanizzante. Dovrei avere qualcosa, fra. Forse è qua, mio, che calvetto in più. devo controllare bene, mi faccio questo qua, mi guarda, ce l'ho. No, questo no, questa è la più lunga. Ma no, qualche capo ce l'ho, mi va, ne ho uno qua adesso. Questo è 5 fili. Se ti serve, fai trovare, buono, se lo passa qualcuno e te lo cambi. Va bene, non ce n'è. È nuovo nuovo, Cioè è usato ma è nuovo. Ma è come diametro, com'è? Uno spiralato, Questo però è. Le spire sono piccole, non è tipo il calcolo della macchina che ha spirali da 2 centimetri. Queste saranno da 1 centimetro o qualcosa, dai. Più sottile è quello, metti questa cosa che gli fa. Metti questo qua più resistente, c'ha. Adesso dico quale c'ha, allora, c'ha il blu, calza, bianco, rosso e nero. E noi qui il colore già non è un problema, basta che fai uno schema prima di saldarlo, prima di staccare tutto e poi segui passo a passo, dai. Se ti serve, cioè, a proposito, che si può usare? Questo è un microfono, Presidente, questo non funziona, ci manca la capsula. Faccio il capo lo stesso, spinotto. E poi c'è un microfono, il cavetto del Mobicom. E questo qua è a... vediamo questi fili, e questo è a... questo è a 6 fili, quello del Mobicom. Che poi non si può utilizzare. Questo qua è più sottile, forse come il tuo, però è grigio. Lo sto guardando anch'io, qua ne uno era di una vecchia cornetta telefonica, però non so se vada bene. Vabbè, io c'ho anche questo qua, c'è anche lo spinotto a 5 qua. Vabbè, questo non ne fai niente. No, a 6, quello che volevo dire. Questo qua è leggermente più sottile. Utilizzi sempre 4 fili. C'è nessuno, aspetta, fammi vedere. Non lo vedo molto bene. Allora. Sì, c'è calza, blu, rosso, nero, verde e bianco. Ho preso che sto guardando io le otto fili, c'è azzurro, c'è celeste, giallo, rosso, marrone o viola, poi non vedo bene qua. Un grigio, un nero, un verde e un bianco. Però ripeto, era un cavo di una cornetta telefonica. Non so se vada bene come schermatura. Cosa c'è? Ma non è a calza intanto il filo del microfono, lo sai? Sì che c'è a calza. E allora è schermato, questo invece non è... non deve essere schermato. Non so però quanti fili stai utilizzando. Che microfono è il tuo? Lo Shure. Dovresti vedere lo spinotto quanti fili c'è collegati. Se ne hai 4 ti usi quei 4. Più o meno ti fai la... come si dice, ti usi più o meno i fili che sono simili, agli altri li sposti, no? Faccio un esempio, se c'hai un rosso e un nero, una calza e un bianco e un giallo, invece qua ce l'hai blu, fai li inverti, no? Non è ci vuole molto, si fa così. E agganci quelli così. Andiamo a vedere dentro quanti ne aggancia. Oh, il problema è che non ha la calza, capito? C'ha tanti fili ma non ha calza. C'è un filo bianco più grosso, più isolato, ma non ha una calza in rame, diciamo, a livello di schermatura. Ho capito. C'è qualcuno, Gianni, ci sei? Si sente qualcuno di in FM, cos'è? Ah, qualcuno stava splatterando. Ho provato sull'11, non c'è nessuno. Non lo so, non sento nessuno. Abbiamo fatto assieme. Stai entrando la propagazione? Boh, forse all'11. Я вот эти. Отремонтируем вашу радиостанцию и настроим антенну. Я его класса фишка на канале 11. О, это qua in FM, lo sento, straniero. Ma la sento bassi, non arrivano forti. Capita spesso che lo sento sempre sulla stessa frequenza, ci facciamo una chiacchierata, sui canali alti. Ma a volte siamo stati anche più di un'ora parlando, Segnale costante. Certo. Sai cos'è il problema? Che non c'ho più la passione. Sì, mi faccio due chiacchiere con voi, ma no, prima si messi là, andavo nei canali alti. Non me la fotti più nuda, va. Non ci penso nemmeno. Quando inizia la propagazione, allora ci vado. Sì, infatti, questa è la propagazione. No, ma anch'io l'avrei notato, anch'io sto entrando un po' più niente, un po' per il lavoro. Un po' come dici tu, ogni tanto ti ne passa la gana. Io se sono impegnato, cioè, a casa con mamma, vai qua, vai là. Se devo andare anche a proposito giovedì a farmi il foglio medico, cazzo che casino. Io adesso sto andando alla campagna, dato un'occhiata ai giovanotti, tutti e due, ne ho due ancora, grazie a Dio, anche se sono grandetti. Ma due figli c'hai? Grandi sono. Eia, uno, chi è? Gianni? Chi è entrato? Che senso ha cazzo fischiare accanto, boh. Ma sta fischiando ancora? No, qua solo. Ma è entrato qualcuno? No. Ho visto l'importante salire. Un figlio maschio. No, figlio maschio hai. Magari ti hanno detto c'è quasi 30 anni. Ho capito. Gianni, ci sei? Mandami un messaggio. Qui sappiamo dov'è. Che casino là. Hola. Sei liscio? No, sono agganciato. Aspetta. Fanno scaldare ogni tanto, questo è budendi. Ma sono sganciato. È vero, sì, è agganciato. Fra, ci scendi mari, Sei saturo. Una paginata. Guarda adesso se va bene, dai. No, a parte che sei troppo amplificato, abbassa. Non si compra un tanto. Guarda adesso. Boh, io lo sento male. Prova, Fra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Non sei più saturo come prima, però è rimbomba la voce, effetto vuoto. Vabbè, perché sono in una camera vuota, dai. Sarà quello. Cavagalla. E adesso come è? Guarda un po', 1, 2, 3. Per me è meglio. Luca, va bene così? Eia. Cappagappa, ok, dai. Così è da salotto. Vabbè, perché la stanza è vuota e quindi rimbomba per quello. No, ma così per me va molto meglio, ma gli hai abbassato un po' di mic gear, l'amplificazione, e si sente molto meno, anzi quasi niente. Perché era troppo alto di microfono, adesso l'ho abbassato un altro po', così dovrebbe andare bene. Sto utilizzando un Tamer più 3. Perfetto, va benissimo. Kappa. Ok, dai, riprendete. Sì, stavo chiamando a Gianni, ma non è desaparecido. Mi hai mandato un messaggio, lui. Di nomato non visualizza. Gianni cazzo è un po' gussi, no? Visualizza i messaggi. Stanotte mi tocca di notte, porca miseria, una giugana. Cosa, Fra? Mi tocca di notte stanotte di turno. Fra, abbiate capito il travaglio. Lo so, ma ho preso questa impresa che non finì più. Lo so già un anno e mezzo preso. Vabbè, dai, tra poco vado in pensione. Se non mi avessero bruciato quei 4 anni, cazzo, sei stato già fura. Poi ti puoi anche divertire, farti un bel viaggio con tua moglie, fare tutto quello che puoi fare nella vita, e poi è un casino, Quando sei vecchio. Ehi, qualcosina la stiamo facendo, però il problema sono i genitori, che quando sono anziani così non li puoi fidare più di tanto, perché poi devi dare riposi alle badanti. Riesci a fare qualche fine settimana, qualche weekend così, niente più viaggi come prima, là. Avanti, Fra. Andato di lì. Questa dice, avrò mille difetti, ma almeno prima di comprarmi l'iPhone 14 guardo se ho i molari. Beh, prima i denti. Prima la salute, ma ti pare, Io volevo comprare la macchina, prima ho pensato alla salute, Fra. Sono a piedi, chi se ne frega, ma almeno ho pensato a me. Poi la macchina già arriva. Certo. Speriamo bene che devi trovare un buon posto di lavoro, tranquillo, e fare che ti dia un po' di serenità. Piano piano. È che purtroppo mi chiamano al lavoro, ma troppe ore e pochi soldi. Mio figlio non è così, infatti se n'è andato. Facciamo se parlo per 10-12 ore, ma per 600 euro al mese. Quei 600 me ne guadagno a casa. Il problema è che non sono più un ragazzino. Alla fine un ragazzino bene o male si gestisce, sai. No. Non posso andare per 50 euro a fare 12 ore di lavoro, ma anche no. Poi fuori Sassari pure, no, non ci sto. E quello ne approfittano poi, boh. Attento, è un lucariello. Chiebe. La persona che lavora deve essere anche pagata. No, che tu ti vuoi ingrassare la canna e non lo paghi. E io ho chiamato quello là, fra della Zanussi. Solo che adesso è un casino, sono un po' incasinato, nel senso che dovrò fare un intervento. Gliel'ho detto, comunque domani faccio un salto, vediamo un po' quanto sono i dindini provvisori, io vado lì, poi quando mi chiamo dall'altra parte vado dall'altra parte, almeno sono sicuro di quello che sto facendo. Vabbè Luca, quell'affare là è andato, sì. Quell'affare là? È andato in quel posto là. In quel posto là? No, ma avevi detto tu, ti ricordi? E quale posto? No, l'altra volta mi hai detto che c'era, tutti che stavano cercando. Ah, no, sono andato ancora, mi ha chiamato stamattina. Allora, l'ho richiamato perché praticamente mi hanno chiamato per farmi un intervento, capito, fra? Non voglio, cazzo, che poi ci rimanga male, gliel'ho detto, comunque, se ha fretta, dice, fretta non ne ha, però ha bisogno di un'altra persona per fare la squadra. Sì, ho capito. Ehi, dai. Riprendete un attimino. Anch'io devo andare, che se a mangiare qualcosa, che poi se mangio troppo tardi poi mi viene la sonnolenza. Beh, vi saluto tutti e due, ciao Luca, ciao Franco, e alle prossime, ok, riprendi fra. Ciao, dai, ce la riascolto tutte le prossime. Ciao. Questa bene va come modulazione? Per me va bene. Ok, dai, va bene, dai, ce la riascolto alle prossime allora. Ciao, fra, ciao. Ciao. Passa 23, fra, Gio Maria, dai.